campagna elettorale è partita già da parecchio tempo, anche perché le elezioni sono state rimandate 2 o 3 volte, e questo per motivi di sicurezza. L'ONU con molta difficoltà è riuscita ad entrare nelle zone ad etnia Pashtun, quindi il sud e l'oriente dell'Afghanistan, tutta la linea di confine con il Pakistan. E questo perché lì la ripresa della guerriglia talebana si è fatta sentire in maniera pesante, e per chiari ed evidenti motivi di sicurezza l'ONU ha spesso dovuto sospendere queste attività di censimento per le liste elettorali, fino a che non si è arrivati a questa data, che mi pare evidente a questo punto verrà rispettata, quella di sabato prossimo. Si voterà in condizioni di assoluta anarchia, perché in realtà l'Afghanistan non ha un governo riconosciuto dalla popolazione, è puramente formale, e in realtà l'Afghanistan resta un paese con forti divisioni tribali e che continuano a persistere, e il governo attuale ha in mano la situazione solamente di Kabul e dintorni. Spesso e volentieri Karzai viene chiamato il sindaco di Kabul. Per il resto ci sono interessi di gruppi e legati ai vari signori della guerra che si contendono nel resto del paese. In questa situazione la popolazione come vive? La popolazione è assolutamente presa tra due fuochi. Le minacce continue di signori della guerra, di gruppi talebani che minacciano qualunque ritorsione con chi andrà a votare, e la necessità di votare dopo 24 anni di guerra. Anche perché poi ultimamente è arrivata la notizia che pare minacce arrivino da tutte le parti. E tempo fa, qualche giorno fa, è apparsa la notizia di minacce via radio, con un messaggio via radio a Khost, nella provincia di Khost, di sostenitori di Karzai che minacciavano di bruciare le case a chiunque non avesse votato e votato Karzai. Quindi minacce di talebani che vogliono boicottare queste elezioni e invitano la popolazione a non votare, minacce di altro genere. La popolazione è sempre più presa tra due fuochi. La guerra che in realtà non è mai finita. L'Afghanistan ha una storia veramente particolare, perché è un conflitto che dura quasi ininterrottamente da 24 anni, ma che cambia in continuazione, resta fisso l'occupazione straniera. Ma in questo clima è proprio davvero il caso di andare a votare? Io ritengo di no, le condizioni di sicurezza non ci sono. E ormai si è iniziato un processo a cui non si può tornare indietro, perché comunque l'ONU è stata in giro per il paese, ha raccolto oltre 10 milioni di firme e questi secondo i dati ufficiali, anche se poi in realtà sembra che ci siano persone che hanno firmato più volte, che quindi ci saranno anche problemi di brogli, e così come ci sono serie perplessità sul monitoraggio che ci sarà nelle varie sezioni elettorali e al momento dello spoglio, proprio per la difficoltà anche di muoversi, perché ci sono zone ad alta pericolosità. E malgrado questo si voterà, perché si è innescato un processo per cui non si può rimandare per l'ennesima, non si vuole forse rimandare per l'ennesima volta questo appuntamento, anche perché Karzai ha dei legami con l'Occidente a cui poi deve, insomma, lui è stato messo lì senza nessun appoggio popolare, in realtà di fatto è questo. La vittoria di Karzai è data per scontata? È data per scontata, ma non al primo turno, perché comunque i candidati sono in tutto 18, e molto probabilmente questo creerà una fortissima frammentazione del voto, e è aspettato un ballottaggio, abbastanza atteso un ballottaggio. Probabilmente vincerà, anche se in realtà non basta poi vincere le elezioni per poter dire di avere il polso della situazione in mano. Karzai è un afghano di etnia Pashtun, che è la stessa etnia di cui fanno parte la maggior parte dei talebani, ed è l'etnia maggioritaria. Lui è stato scelto anche per questa sua appartenenza etnica, però in realtà moltissimi, anzi, sono stati frequenti gli appelli dei talebani nei confronti di Karzai, che è rivolti a lui come se fosse un traditore, ha servito agli Stati Uniti, e c'è stato l'ultimo consiglio consultivo del Mullah Omar e dei capi talebani qui in vista nel paese, che ha dichiarato una jihad contro Karzai e i suoi sostenitori. Quindi ci si trova nella paradossale situazione di un presidente fatto presidente per un'appartenenza etnica di cui non ha il polso della situazione. È riuscito a scontentare un po' tutti al momento della formazione del governo 2 anni fa. Come sarà il post-voto? Il post-voto io me lo immagino molto caotico, perché verranno di nuovo fuori tutte quelle differenze che già ci sono. Già la scorsa volta Karzai ebbe moltissimi problemi nel riuscire ad accontentare tutte le etnie del paese, e scontentò proprio la sua, nel senso che i Pashtun sono oltre il 40% della popolazione, ebbero meno ministeri della fazione tagika, che invece è secondaria ma ha ricoperto un grande ruolo nell'Alleanza del Nord, che ha combattuto per il crollo del regime talebano. Di conseguenza bisogna fare veramente delle alchimie politiche per riuscire a mettere d'accordo un po' tutti.